Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Deborah? Sì. Allora, prima di iniziare a leggere le notizie di Cuore Denari, la nostra rassegna, volevo condividere con te, i nostri ascoltatori, un pensiero che ho letto oggi. È una frase di Seneca che dice: ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Ti rispondo con una di Warren Buffett. Non serve predire la pioggia, ma conta saper costruire l'arca. E allora, Deborah, seguiamo il cuore, prepariamoci a costruire l'arca insieme. Andiamo. La campagna Amica delle Donne a contatto con la natura, i tassi di mortalità diminuiscono sensibilmente, a dirlo è uno studio statunitense condotto su oltre 100.000 donne, e oltre ad un abbassamento della mortalità, gli scienziati hanno dimostrato che un ambiente ricco di vegetazione produce un miglioramento della salute mentale. Allora, se non potete trasferirvi in campagna, circondatevi almeno di un po' di verde e concedetevi qualche gita fuori porta in più. Ogni italiano, anziani e bambini compresi, ogni anno mangia, pensate, un chilo di additivi alimentari, oltre 3.000 sostanze diverse che sono una delle cause di allergie in aumento negli ultimi anni. Se ne è parlato al recente congresso della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Allora, gli esperti raccomandano di consumare prevalentemente cibi freschi, se possibile di coltivazione biologica, e attenzione, di cucinare con pentole di acciaio inossidabile o pirofile di vetro, e conservare sempre gli alimenti nei contenitori di vetro, perché gli altri materiali potrebbero rilasciare sostanze indesiderate nei cibi. Nel frattempo si stanno organizzando corsi di formazione dedicati ai ristoratori e gestori di esercizi alimentari, per rispondere anche alla raccomandazione del regolamento europeo che suggerisce la presenza di personale formato ad affrontare le allergie tra gli addetti al pubblico. Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, gli italiani non sono ancora pronti per la prova costume. Quasi 6 italiani su 10 sono bocciati. Questi sono i risultati di un'analisi della Coldiretti fatta sulla base dei dati Istat del primo weekend di sole del 2016. Per fortuna siamo solo all'inizio della stagione, e per i consigli su come tornare in forma potete andare sul nostro sito e riascoltare le puntate di Cuore Denari Expo, dove in ogni puntata troverete una categoria di riferimento: il sedentario, l'over 50, lo stressato, i conviventi, la coppia con figli, lo sportivo, il vegetariano, la donna in gravidanza. Per ogni categoria consigli e ricette per ritornare in forma. E chiudiamo con una ricerca che arriva dall'Università di Oxford, che dimostra che per smettere di fumare la strategia migliore è quella del taglio netto. Smettere da un giorno all'altro, dunque, è il metodo più efficace per dire addio alle bionde. Ma se non ci si riesce, ci si può rivolgere ai centri antifumo. Sulle pagine del programma trovate l'elenco aggiornato. Bene. Direi che è ora di passare invece alla raffica di news dal mondo dei denari, che apriamo con i mercati. Borse molto positive questa mattina dopo il deciso rimbalzo di Tokyo, che ha segnato più 3,68%. Anche la seduta di Wall Street ieri sera è finita molto bene, su nuovi massimi, con il Dow Jones che ha riconquistato la soglia psicologica dei 18.000 punti per la prima volta dal 20 luglio scorso. A sostenere gli indici è stato anche il recupero del greggio. Il mercato ha reagito bene al fatto che domenica scorsa siano falliti i negoziati di OA sui tetti produttivi. Per quello che riguarda Piazza Affari, segnaliamo che vanno bene le banche: Monte dei Paschi più 5,54, molto bene stamattina Yoox Net-a-Porter, il colosso dell'e-commerce per quello che riguarda la moda. Il gruppo ha lanciato un aumento di capitale riservato alla società di Dubai Alabar Enterprise, che è un distributore di oltre 70 marchi internazionali in più di 700 negozi in 10 paesi dell'Asia. E a proposito di novità della borsa di Milano, Nicoletta, una notizia che ti interesserà molto. Dimmi. Perché c'è Tecnogym, il colosso della forma fisica, che è pronto a sbarcare a Piazza Affari. L'avvio dell'offerta è previsto da parte, naturalmente, con l'approvazione del prospetto informativo da parte della Consob, però già stato fissato il prezzo, anzi la forchetta di prezzo fra i 3 euro e i 3,75 euro. E a proposito di sport e di allenamento, ne ho trovata anche un'altra carina di notizia questa mattina. È presente i coupon che si comprano per fare una marea di cose, è un fenomeno che va tanto di moda. Groupon ha annunciato di aver venduto 1 milione di coupon nelle categorie sport e tempo libero. Il fitness è la categoria più venduta in assoluto. Io quando vedo tutti questi nuovi arrivare in palestra, magari proprio ti con il coupon, i capelli dritti. No, sai come la chiamo? La settimana 7 kg in 7 giorni, perché tutti sperano di rimettersi in forma naturalmente per l'estate, per la famosa prova costume della Coldiretti. E allora, noi proseguiamo. Sì, poi abbiamo un altro paio di notizie di denari, ma le diamo dopo perché tanto abbiamo un sacco di tempo. Abbiamo tanti appuntamenti. E a proposito di appuntamenti, Deborah, volenti o nolenti, sì, ci aspetta il cambio degli armadi. Una fatica che si rinnova e ogni cambio di stagione. C'è chi sceglie il percorso a spizzichi e bocconi, a singhiozzo, a rate, aspettando magari che il tempo si stabilizzi. C'è chi invece si butta a capofitto come dentro una piscina e ne esce solo quando ha riposto l'ultimo calzino. Tu, Deborah, hai già dato? Ho cominciato, devo dire che però ancora non sono molto soddisfatta del primo lavoro che ho fatto, perché io in genere lo faccio abbastanza presto, appena vedo il primo raggio di sole tolgo tutta la roba invernale. Allora, e voi raccontateci e descrivetevi, diteci se e come mettete in ordine, come disponete i vostri abiti, i vostri libri, gli oggetti che nel tempo avete accumulato, se mettete in ordine, se mettere in ordine per voi è un piacere, una necessità, una fatica, una tortura o addirittura un'arte, una disciplina come quella che insegna Marie Kondo, il guru globale dell'arte del riordino. La Fata Zen è letta dal Time tra le 100 persone più influenti del pianeta. Deborah, dopo il grande successo del Magico Potere del Riordino, edito da Vallardi, che ha venduto milioni di copie, sì, tradotto pensi in 40 lingue, pensa anche cosa tutta questa gente, case, esatto, ecco, questa gente che vuole mettere in ordine venisse un po' a casa mia. Bene, la nostra Marie Kondo torna un po' a intrufolarsi nelle nostre vite, nelle nostre case, con un nuovo libro che promette di bissare il successo del primo. Si intitola 96 lezioni di felicità, la magia dell'ordine per tutti, il metodo giapponese che rivela il lato luminoso delle cose. Ne stanno già parlando tutti i giornali, ne parliamo anche noi, perché questo è un momento dell'anno in cui si fa ordine. E tra l'altro si parla proprio di metodo con Mari, che viene dalla crasi del nome e del cognome, che è questo metodo per liberarsi dal superfluo, dall'eccesso, fuori e dentro di noi. Allora, andiamo anche noi per ordine, presentiamo gli ospiti che ci aiutano oggi a trasformarci in un professional organizer in casa e nella vita, la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Buongiorno, bentornata. Buongiorno a voi. Ben ritrovata. Grazie. E il professor Giampaolo Perna, direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche alla Villa San Benedetto Menni ad Albese con Cassano e del Centro Europeo per Disturbi d'Ansia ed Emotivi. Dottoressa, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Professore. Non è a caso, è qua. Dottoressa Torti, noi entriamo subito nel tema per una sintesi del condopensiero. Allora, ordine inteso come alleggerimento, un invito a tornare all'essenziale, tengo le cose che mi piacciono, quelle che mi danno gioia, che mi servono, che mi suscitano emozione. Deborah, mi terrai ancora? Ma non so se leggere, se superi consigli l'esame di stamattina, vediamo. Allora, elimino, mi spoglio di tutte quelle inutili che sono lacci, zavorre, che non mi dicono più niente, non mi emozionano più. Ad esempio, il maglione che mi ha regalato la zia Pinuccia, che non metto da anni, ma anche tutte quelle carte, quei documenti, tutta quella. Brava, attenzione. Documenti, che dopo li mettiamo a posto pure quelli. Allora, facile a dirsi, ma non a farsi. Che fatica, poi eliminare, buttare via tutto, a volte è faticoso, non solo fisicamente. Dottoressa Torti, ieri Niola su Repubblica scriveva: stiamo diventando accaparratori compulsivi, ci circondiamo del superfluo, dell'inutile. Tra l'altro sembra che siamo i primi in Europa per il numero di oggetti inutilizzati. E quindi in questa condizione ci ritroviamo un po' tutti descritti, ma potrebbe essere utile, seguendo l'indicazione della nostra guru, capire tra tutte le cose che accumuliamo quali sono quelle di cui facciamo più fatica a liberarci. E vi do un elenco: vestiti, libri, carte, oggetti misti, li chiama comomo, e quelli che invece per noi hanno un valore sentimentale. Perché? Perché, dottoressa Torti, vorrei che come psicoterapeuta lei ci raccontasse perché, quali relazioni ci lega a queste difficoltà. Quindi Per farla breve, ai nostri ascoltatori, cambio dell'armadio, questo, parliamo di questo ordine, di questo nuovo successo editoriale, di questa nuova filosofia. Pensate a casa vostra, i vostri armadi, alla vostra scrivania, tutto quello che vi circonda. Di che cosa e a che cosa fate più fatica a rinunciare, nonostante abbiate proprio la consapevolezza che non c'è nulla da fare, quell'oggetto non vi serve, quel libro è lì, non l'avete mai letto, eccetera. Dottoressa Torti, perché è importante che noi facciamo un po' di ordine? Beh, iniziamo a dire soprattutto che si tratta di un atteggiamento mentale. Se noi ci riflettiamo un attimo, vediamo che incameriamo informazioni di un genere tipo ogni giorno, ma sono tantissime, no? Accendiamo internet e ovviamente troviamo una marea di informazioni che neanche tanto ci servono a volte, eppure le leggiamo. Quindi l'atteggiamento parte dalla testa come sempre. È vero che, come dice Condomeri, ci sono delle cose che noi accumuliamo in casa soprattutto, quindi oggetti pratici, di cui non ci sbarazziamo perché facciamo fatica a decidere, a dare un ordine di priorità in qualche modo. Allora, fare spazio potrebbe voler dire restituire ad ogni singolo oggetto il valore che ha davvero, che rappresenta il nostro valore. Quindi se io ho una scrivania piena di oggetti, di fogli, di carte, come dicevamo prima, e non riesco a decidermi, forse perché non mi sono messo davvero a domandarmi che priorità do alle cose che devo fare. E quindi in qualche modo diventiamo un po' tutti accumulatori di qualcosa. Se ci guardiamo dentro abbiamo un'area che nasconde un caos, un disordine, un accumulo. Io vi posso dire che ce ne sono diverse di aree, come dicevi tu Nicoletta, dai vestiti all'abbigliamento in generale. Pensiamo solo alle scarpe che noi donne possiamo accumulare senza poi magari mettere realmente. C'è un'Imelda che sonnecchia in ciascuna di noi. Esatto, Imelda Marcos e le sue miliardi di scarpe. Esatto, oppure libri, riviste, dipende molto da quello che facciamo a livello anche professionale. Se io penso alle differenze di accumulo, posso anche identificare caratteristiche della personalità diverse. Allora mi immagino facilmente che chi accumulerà libri, riviste, documenti sia molto interessato a quell'area. Penalizzazione però del fatto che se io ho 800 libri in casa non riuscirò mai a identificare quali sono quelli che magari posso davvero leggere e quindi verrò comunque paralizzato da questo caos. Oppure ancora alimenti. Pensiamo a chi fa scorte di alimenti, dalle scatolette all'acqua, alimenti anche freschi che poi magari vengono anche buttati purtroppo. Quindi, andando avanti, elettrodomestici e stoviglie, sapete, come psicoterapeuta incontro anche persone che hanno questo tratto un po' patologico, poi non per tutti così, ma non so, ho sentito dire che ci si accumula fino a 10 aspirapolveri diverse. Quindi, no? Perché ogni aspirapolvere ha una caratteristica specifica per andare a pulire la casa in un certo modo. E poi di fatto se ne usa una sola. Quando si usa. Quando si usa, esatto. Oppure medicine, l'armadietto che straborda e non facciamo mai pulizia. Oppure detersivi, materiale per la cosmesi, quante creme rimangono non utilizzate. Materiali vari che poi alla fine rimangono proprio un po' senza vita. Quello che diceva Condomari è proprio questo, restituire a ogni oggetto una propria vita. Essere consapevoli del destino che ha quell'oggetto per noi oppure in generale rispetto a quello che deve essere. Allora, un repulisti fisico ed emotivo, 800 24 00 24, se volete farlo con noi, insieme a noi, per capire anche qualcosa di più, per stare anche un po' meglio, magari poi teniamo tutto ma in modo consapevole. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e torniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. E siamo tornati insieme. Allora, mettiamoci al lavoro, mettiamoci in gioco, cerchiamo di fare un po' di ordine seguendo questo metodo con Mari, un metodo di una signora giapponese che insegna a liberarci dal caos da cui ci circondiamo, e questa operazione dovrebbe aiutarci ad avere una visione più luminosa della nostra vita. Allora, professor Perna, in Giappone l'arte del riordino è una vera e propria forma di cultura. Sua mamma è giapponese e allora è stata dura a domesticare le sue richieste. Chi ha avuto la meglio? La mamma giapponese o il papà italiano? Si sono fusi. Fusion. È vero che l'arte del riordinare non è tanto legato in se stessi all'essere ordinati, come intendiamo noi in Occidente, quanto piuttosto all'avere una mente ordinata, coerente e fluida. Per cui la tradizione orientale, ma anche alcune modalità di insegnamento occidentale, esiste una cosa che si chiama precision medicine, che dice precision teaching, che ci dice che non è importante la percentuale delle cose che impariamo, ma il fatto che le impariamo in maniera fluida. Ricordiamoci che un esperto non è colui che controlla ogni singolo atto che fa, ma qualcuno che ha imparato così bene che gli viene spontaneo, non deve più neanche pensarci. Allora, essere ordinati vuol dire ripetere le cose continuamente, quindi avere quella sorta di disciplina mentale, no? Che porta all'ordine, e l'ordine poi porta poi alla fluidità. Volevo dire una cosa extra che questa, in tutti i libri di business, in tutti i libri di coaching, si dice che l'80% delle cose importanti vengono fatte dal 20% di quello che possediamo. Quindi esempio, su 100 libri che noi abbiamo, di solito ne leggiamo veramente pochi. Quindi in generale ho le camicie, mia esperienza personale è che se io conto il numero di camicie, quelle che realmente uso, soprattutto fino a poco tempo fa, su l'80% del tempo utilizzavo quel 20% di camicie. Quindi questo concetto del 20-80, addirittura 10-90, ci dice che noi nella realtà abbiamo bisogno di utilizzare poche cose. Per quale motivo in realtà ne teniamo tante? Un po' per un bisogno di controllo. Può darsi che un giorno quella cosa mi diventi utile, no? Poi in realtà non capita mai. E sotto sotto è legato spesso anche a una forma di ansia. Io ho tutto sotto controllo, no? Quindi ho tutte le cose a disposizione, così sono sicuro che non mi accadrà nulla di male. Quindi in qualche maniera l'ordine, l'essere ordinati troppo ci dice qualcosa, l'essere disordinati ci dice anche che noi sprechiamo molto tempo e molta energia. Professor Perna, leggendo il libro di Marie Kondo, mi veniva, e quindi pensando, sono andata a vedere, ci sono anche comunque delle indicazioni molto interessanti riguardo anche i reggiseni, Deborah, di cui parleremo. Sì. Voi come li disponete? Li mettete uno di fila all'altro, andate per colore, spalline? Esatto. Qua chiedo abbinati alle mie alle amiche da casa, perché, ecco, perché ne parleremo nel corso della trasmissione, anche perché c'è proprio una mostra di cui vogliamo raccontarvi, dedicata all'intimo, chissà come le hanno disposte. Ma professor Perna, intanto che pensava tutti gli oggetti che li guardo lì dalla mia scrivania, veramente, cioè, poi ve la fotografo e così decidete se seguirmi ancora o no, o mandarmi qualcuno di bravo. In fondo anche lei mette ordine, perché facendo lo psichiatra aiuta le persone a mettere ordine anche nella loro mente, a liberarsi ad esempio da paure, ossessioni, ricordi, ed è un po' l'operazione che cercheremo di fare oggi noi. Partendo dagli oggetti andiamo a cercare, e invitiamo gli ascoltatori a raccontarci se non riescono, oltre che dal maglione, della camicia, del libro, a liberarsi di una paura, un'ossessione, un pensiero che, no, ti sveglia la notte o che ritorna o che va in qualche modo a rovinare il momento in cui ti sembra di essere felice. Professor Perna, bisogna stare dei molto tarli. Attenti, sì. Bisogna stare molto attenti, perché il riordinare deve essere di aiuto, non deve essere un'esagerazione oppure sentita come una costrizione, altrimenti ricadiamo poi in una condizione patologica che è l'ossessione e la compulsione. Sì. Quindi non è che ripetere un gesto sempre sia un segno di essere ordinati, dipende se è finalizzato e funzionale. Quindi la prima cosa da capire bene è che l'esagerazione non va bene, lo sappiamo dalla storia, dagli antichi, bisogna essere un po' equilibrati. È importante sapere che riordinare implica tempo, quindi quando questo investimento di tempo ci è utile per funzionare meglio, assolutamente ci va bene. Quando invece diventa fine a se stesso, ecco che perde il suo valore e rischia di diventare patologico. Bisogna anche stare attenti molto a farsi un'analisi attenta sul fatto se e quanto siamo ansiosi, se e quanto il nostro bisogno di aver tutto sotto controllo sta alla base del tenere ordinato. Perché se è così, vuol dire che noi stiamo più seguendo quello che è la nostra paura piuttosto che un reale funzionamento ordinamento. Qual è la cosa importante? È che al di là di questi warnings che sono importanti sulla patologia, poi essere ordinati è un fattore innanzitutto mentale. Tu dicevi della tua scrivania, in realtà tu sei ordinatissima nella tua mente. Se io te la mettessi in ordine, tu non troveresti più nulla. Così in questo esterno caos, probabilmente tu sei in grado di trovare le singole cose, perché una mappa mentale della tua scrivania l'hai fatta. Poi a me dall'esterno sembra disordinata, in realtà hai trovato un tuo ordine personale. Questo capita molto spesso. Molto spesso riordinare la scrivania di un disordinato è pericoloso, perché poi il disordinato, che è abituato a mettere delle cose in certe zone, magari non in maniera ordinata, ma in maniera localizzata su una mappa mentale, poi non le trova più. Abbiamo le telefonate dei nostri ascoltatori che intervengono e adesso quindi mettiamo al lavoro e chiediamo ai nostri esperti un aiuto per mettere ordine nella nostra vita, nel nostro spazio, nel nostro ambiente. cerchiamo di capire perché, che cosa ci lega a quegli oggetti, a quei libri, a quei vestiti di che non indossiamo mai ma che rimangono con noi, ma nello stesso tempo facciamo questo esercizio, questa sorta di allenamento. Oggi praticamente andiamo in palestra per liberarci di quei pensieri che in qualche modo sono un po' un freno a mano, ci impediscono di stare bene. Andiamo ad Anna da Roma, ci chiama all'800 24 00 24. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo, mi sono accorta che ho cominciato ad accumulare da un po' di tempo e ho cercato di individuare le motivazioni. Allora, per quello che riguarda gli abiti, purtroppo c'è sempre la speranza di rientrare in un abito di una taglia precedente, è una speranza. Però per il resto quello che domina è la paura. Dunque, per quello che riguarda i documenti, mi Anna, sono ritro... Anna, fermiamoci sugli abiti e diamo la linea al GR e ritorniamo subito dopo con i nostri ospiti. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend, ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Cuore e denari. Mettere ordine nelle cose aiuta a mettere ordine nella mente. Ma è davvero così? Secondo voi funziona? 800 24 00 24, diteci di che cosa vi siete liberati di recente, di chi o che cosa vorreste liberarvi e che cosa invece non riuscite a buttare, da che cosa non riuscite proprio a liberarvi. 800 24 00 24, noi oggi stiamo seguendo il metodo di Marie Kondo, una fatta Zen, come è stata definita, che insegnando a eliminare il superfluo senza esitazione promette di fare spazio anche nella mente e quindi arrivare alla felicità. Quindi Deborah, tu che mi dici sempre di non buttare via le carte, non buttare, io invece adesso allora, seguo il metodo Kondo. Vado a casa e alleggerisco. Allora, a parte il fatto che anche tra i documenti possiamo fare un po' di ordine utilizzando le opportunità digitali che oggi abbiamo, quindi fare dei begli archivi al computer. Detto questo, siccome non è facile, in realtà molti hanno proprio bisogno di visualizzare e toccare con mano la documentazione che va tenuta da parte. Noi faremo un punto della situazione tra poco, dopo aver naturalmente ascoltato i tanti ascoltatori, anche sulla corretta archiviazione dei documenti, le ricevute di pagamento, perché è importante fare anche questa operazione, visto che ci può risparmiare molte seccature e ci può anche evitare di dover corrispondere magari a volte importi già versati, pagare due volte delle multe, pagare delle sanzioni inutilmente, chiedere dei duplicati che sono spesso onerosi, per cui attenzione anche a questa. Allora cercheremo di fare ordine tra i documenti che vanno conservati per un tot di tempo, quelli che invece possiamo buttare tranquillamente perché nessuno ce li chiederà più. Quindi fateci entrare nei vostri cassetti, nei vostri armadi, nelle vostre case e anche nella vostra mente, perché il gioco di oggi, e ringraziamo il professor Perne e la dottoressa Torti per essere qua con noi, è di cercare di trovare un metodo, valutare se quello suggerito da Marie Kondo, che è uno dei tanti, riprende, non è niente di nuovo, perché riprende un po' alcuni concetti anche del Feng Shui, dello Zen, può essere adottato anche per liberarci di quei tarlini più o meno invadenti che ciascuno di noi si trova a dover combattere quando ti sorge quel pensiero, se hai la preoccupazione. Dottoressa Torti, noi non abbiamo posto le nostre domande, non abbiamo fatto le nostre convocazioni a caso, perché tutto questo ha una ragione. Noi vogliamo infatti dare a chi ci sta ascoltando, anche in modo magari un po' disordinato, mordi e fuggi come il nostro architetto, alcuni spunti per stare meglio. E voglio riprendere la telefonata della nostra ascoltatrice, sì, che abbiamo dovuto interrompere prima del GR, ma qui invitiamo naturalmente a scriverci a cuoredenari@radio24.it. Non mi libero dei vestiti perché sono quelli di una taglia, no? più bassa, più piccola, e quindi c'è questo, sempre questo desiderio, un richiamo a ritornare in forma, un desiderio di tornarlo, ma anche un po' di frustrazione, perché apro un armadio e vedo tutti i pantaloni taglia 38 e io ho la 46. Dottoressa Torti, è un voler, no? È un po' certamente sì, è una frustrazione continua se apro l'armadio e non posso indossare quello che trovo nell'armadio nel momento attuale e presente. Teniamo appunto presente che dobbiamo ragionare su tre assi temporali: il passato, il presente e il futuro. Non posso vivere né troppo nel futuro né troppo nel passato. Quindi in questo caso Anna da Roma giustamente dice: io voglio tenere questi abiti perché ho il desiderio, ho l'illusione in qualche modo di poterci tornare dentro. Benissimo, ci può essere questa speranza, perché la speranza mi fa muovere verso dei cambiamenti, ma facendo così, ovvero facendo solo così, io mi chiudo in un'immagine corporea del passato e non riesco a cambiare, non riesco a mettere in atto strategie nel presente per riuscire a tornare in forma, se mi serve tornare in forma, abbellire la mia immagine esteriore se mi serve farlo. E quindi questo è il punto, creare quel ponte tra presente e futuro che però si deve realizzare a breve, cercando appunto di risolvere il problema, non mantenendo abiti che non si usano più. Posso anche scendere a un piccolo compromesso. In questo caso la nostra Marie Kondo potrebbe dirci: buttare tutto indistintamente, quello che non si usa più. Forse no, forse possiamo mantenere uno o due paia di pantaloni. Tutto il resto deve essere quello che io sfrutto più o meno quotidianamente. Regalato, fate come me. Mia moglie mi dice di portare le scarpe in cantina e io le porto direttamente nella spazzatura, nei cassonetti gialli, ci scrive il nostro amico Francesco. Non possiamo dire di più, anche se ci dà delle indicazioni, perché temo che poi la moglie poi gli mette ordine. Davvero. Allora andiamo a Luca da Milano, a Marco da Bologna. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Io chiamavo per una mania che ha spesso mia moglie, che è quella di riciclare tutti i vasetti di vetro delle varie conserve, marmellate, miele che si usano in casa, e non vi dico quanti ne ho ormai in cantina. È circondato. Pure io circondato, ce ne ho parecchi. E quindi vorrei capire questa cosa, perché mia moglie ha questa mania e spesso poi mi capita di scendere di nascosto, tra virgolette. E fa come Francesco che butta. E buttarle. Andiamo a Marco. Buongiorno Marco e ringrazio intanto Luca. Marco, lei che cosa ci Buongiorno. Racconta? Io diciamo che per lavoro giro molto e quindi non ho mai avuto la, tra virgolette, la calma di trovare una sede fissa, così, no? Anche un po' per leggerezza. E adesso mi trovo a girare, a dividere la mia vita su tre città, quindi Bologna, Terni e Napoli, dove ho messo praticamente tre magazzini, sì, naturalmente completamente disordinati. Poi le cose le trovo, ma certo, comunque sono completamente direi disordinati. Già una vita un po' disordinata, Marco. Precisamente disordinata. Allora, e tutte le volte che arrivo a voler mettere ordine, arrivo a un punto e poi dopo ricrollo giù. È come se ho questa sensazione, sto per arrivare a fare un attimino un minimo di ordine accettabile, quindi e mi rirovino. Allora Marco, intanto sentiremo la dottoressa Torti o il professor Perna se hanno qualche consiglio. Certo, sarebbe più facile vivere nello stesso posto, ma c'è una sorta di telenovela adesso, radionovela, perché ci scrive Marta, la moglie di Francesco, che ci dice: sono davvero la moglie, sì, lo so che le butta, ma gli faccio credere che non lo so. Vedi, le mogli sono fantastiche. Allora professor Perna, due spunti che prendiamo dai nostri ascoltatori, che diventano però uno spunto di riflessione. Non scendiamo nel particolare, ma per dare un po' qualche indicazione a chi ci sta ascoltando. Ma in generale, quando siamo ordinati e ci sentiamo bene, allora non deve essere un segno di patologia, di problema, no? Quando in realtà ci sentiamo costretti a, ecco che dobbiamo porci qualche domanda. È vero che poi c'è un altro elemento, che noi, se viviamo con qualcuno, dobbiamo in qualche maniera trovare il giusto compromesso fra ciò che desideriamo noi in qualche maniera e ciò che è l'esigenza dell'altro. Però prima di bollare situazioni di ordine come manie o patologie o cose varie, bisogna essere molto molto attenti. Dottoressa Torti, l'idea di accumulare. Ci sono anche persone che collezionano. Già, ecco. lo chiamano collezionismo, ecco, invece di disordine. Ecco, collezionano e ci sono. In questo caso, e ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, qual è la lettura di uno psicoterapeuta? È bello collezionare oggetti, libri, si vanno a cercare nei mercatini, c'è un mercato fiorente, no, del collezionismo? Assolutamente, assolutamente, e anche, insomma, si possono anche, non dico arricchire le persone, ma farlo diventare una forma di risparmio, diciamo, ecco, ci sono le monete, no? Ne abbiamo anche parlato in qualche trasmissione. Ma il collezionismo... Io vorrei collezionare diamanti. Ecco. Parliamone con Carlo e vediamo se è d'accordo. È una forma di piacere il collezionismo e come tale non è un disordine patologico o appunto un dispiacere per la persona, lo fa con piacere, quindi la persona trae gioia dal collezionare, dai francobolli agli orologi, a tutto quello arte, quadri, tutto quello che da piccino a adulto, però appunto tutto collegato a un'emotività positiva, non c'è nulla di negativo in questo, non mi trovo a disagio se colleziono. È chiaro che deve essere un collezionismo finalizzato a avere un quantitativo di cose che piacciono e che non devono infastidire le persone che vivono con noi. Professor Perna, liberarsi, cioè trovare un ordine nelle cose, soprattutto la nostra Mari suggerisce di farlo tutto d'un colpo, non a spizzichi, non un po' un weekend, un po' l'altro, prendere il toro per le corna. Può essere difficile, ma ce la si può fare e potremmo anche averne dei benefici. Più difficile tenere in ordine i pensieri, ci sono dei pensieri che sono molto invadenti, che sono zavorranti. Allora, mi aiuta mandando dei flash ai nostri ascoltatori, così rispondiamo anche alle diverse richieste che sono arrivate proprio relativamente all'ordine nei pensieri, a liberarci. Ad esempio, quel pensiero che mi fa tornare a controllare se ho spento il gas, chiuso la porta, ho spento il computer. Anche questa una piccola ossessione, una piccola mania, professor Perna. Allora, innanzitutto a me viene in mente lo slogan, non si può dire, di una nota casa di abbigliamento sportivo, just do it, cioè l'azione è l'elemento fondamentale. Quindi quando vogliamo uscire da un loop di pensieri continui, la cosa che dobbiamo fare è agire. Agire vuol dire, se io continuo per esempio a pensare che devo iniziare una dieta, in realtà devo agire dove? Non a casa mia, ma al supermercato, mentre il carrello. Quindi dobbiamo trovare quelle piccole strategie del fare che ci permettono di uscire dal loop del pensiero. Ovviamente, e questo lo ripeto rapidamente perché non è argomento, è se la mania o la fissa o il pensiero diventa così ossessionante da rovinarci la vita, andiamo in un dominio patologico. Ma se non entriamo in quello, comunque in quelle piccole fisse quotidiane che abbiamo, dobbiamo sempre confrontarci con la realtà. Quindi essere un po' come in tribunale, eh. Io ho un pensiero, una preoccupazione, lo metto lì e mi chiedo quali sono le prove concrete nella mia vita che dicono che questa paura è una paura reale e valida. Se non ho delle prove, allora devo essere capace di dismetterla. Andare avanti con questo rotolio del pensiero continuo ci consuma un sacco di energia, perdiamo un sacco di tempo, no? E aumentiamo i livelli di stress. L'altra cosa è bloccare il rimuginio nella mente, per esempio andando a fare delle cose ripetitive. Se io faccio giardinaggio, se io in qualche maniera vado a fare io anche un videogioco, qualsiasi cosa che distolga il pensiero, blocca questo loop continuo e ci permette di cambiare zone e attività. Quindi quando mi vengono i pensieri vado a mettere in ordine le carte, Deborah. Esatto, anche perché ne traiamo vantaggio probabilmente per il futuro, per evitare qualche problema futuro. Comunque, insomma, forme di collezionismo da bollettini ed F24, spese condominiali, le tasse della nettezza urbana non ce ne sono per fortuna, perché quella è veramente una depravazione. C'è qualcuno che però ha probabilmente anche la mania di mantenere in rigorosissimo ordine tutti questi documenti, proprio appunto per, come dire, tutelarsi dall'eventualità che prima o poi ce ne possa essere bisogno. Ma c'è anche un altro argomento: in realtà ci sono delle situazioni in cui come dire, non si è più tenuti a dimostrare nulla, anche queste ricevute, questi documenti cadono in prescrizione e quindi ci sono delle fissazioni appunto per legge molto precise, i termini di prescrizione dei documenti che dobbiamo ordinare appunto variano a seconda del tipo di documento. Per fare ordine su questo argomento abbiamo chiamato un esperto di altro consumo, che è Maurizio Amerelli, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ci sente? Sì. Amerelli, eccoci qua a lei. Allora, cominciamo un po' con il fare ordine in questo argomento, cominciando come facciamo anche una graduatoria proprio di anni, no? Ad esempio, le bollette per consumo di acqua, luce, gas e telefono, quanti anni è consigliabile conservarle? Allora, in questo caso 5 anni. Abbiamo tutte scadenze diverse, perché ovviamente sarebbe troppo semplice una scadenza unica per ogni bolletta, per ogni scadenza fiscale, per ogni tassa che si deve non pagare. È il paese questo che brilla per, come dire, semplificare la vita dei cittadini, per cui abbiamo detto 5 anni per le bollette acqua, luce, gas, telefono, poi abbiamo 5 anni per le spese condominiali, 5 anni per i canoni di affitto. Poi abbiamo sempre questo, diciamo che i 5 anni sono la cifra più ricorrente, 5 anni per le multe, le famose multe per le contravvenzioni del codice della strada, 5 anni per le scadenze delle singole rate dei mutui. Allora, tra l'altro ho trovato delle informazioni invece discordanti, per esempio per quello che riguarda la TARSU, la TIA, la TARI, quindi rifiuti e quant'altro, perché il vademecum pubblicato da Altroconsumo indica 5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento e di obbligo di dichiarazione. Altre fonti invece dicono che addirittura sarebbe consigliabile conservarle per una decina d'anni almeno. Appunto, voi i 5 anni, la fonte, diciamo, della vostra informazione qual è? Sì, certo, perché ovviamente per complicare sempre il tutto abbiamo ovviamente la fonte primaria che è la fonte di legge, poi nel frattempo, nel corso degli anni, la giurisprudenza va a interpretare le leggi e quindi a volte ci sono dei termini differenti, per esempio mi viene in mente un qualcosa sul canone RAI, ci sono state interpretazioni diverse nel corso del tempo, anche sul bollo auto si sono succedute diverse interpretazioni. Naturalmente la stima più prudenziale è sempre quella migliore. Comunque diciamo che per quanto riguarda proprio tassa nettezza urbana, quindi TARSU, TIA, TARI, poi sappiamo che ha cambiato nome nel corso degli anni, quindi già bisogna tenere a mente qual è la sigla di riferimento. 5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento, quindi la pago nel 2016, la conservo ovviamente fino a fine 2016, ma anche per i 5 anni successivi. Fino alla fine del 2021. Senti, invece tutte le spese che riguardano e la certificazione che riguardano la dichiarazione dei redditi, come ci dobbiamo comportare in questo caso? Anche perché il fisco comunque ci pesca anche dopo tanti anni in cui abbiamo commesso un'irregolarità. Tra l'altro siamo proprio nel periodo giusto per esatto. La dichiarazione dei redditi. Stiamo facendo adesso proprio grande ordine su tutte le certificazioni delle spese che abbiamo sostenuto lo scorso anno, proprio per portarle al commercialista con il massimo ordine possibile per non fargli venire capelli dritti. Amerelli. Ecco, perché in questo caso il conservare i documenti ha una duplice finalità, sia una finalità difensiva nel momento in cui ci sia qualcosa che non va, quindi per dimostrare comunque che si è pagato, che si è tutto in regola, sia una finalità diciamo così vantaggiosa per l'utente, perché nel caso per esempio di tutte le detrazioni oppure nei casi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica, ovviamente abbiamo detrazioni che vengono a nostro favore, quindi è anche per noi conveniente tenere un certo ordine in modo tale che se ci contestano di aver diritto a una certa detrazione sappiamo che abbiamo le ricevute, le famose ricevute, per poter dimostrare che abbiamo diritto a quella detrazione. Ultima domanda, Merelli, scusa Nicoletta, volevi aggiungere Enrico qualcosa? Enrico ci chiede, cosa posso chiede? Fare scansione ed eliminare il cartaceo? Ah, certo. Vedi come esatto, com'è lo dicevamo prima, insomma, proprio per alleggerire un po' l'ingombrante archiviazione casalinga. A Merelli, beh, voglio dire, è un'indicazione diciamo del tutto personale. La tecnologia ci viene in soccorso, anche perché a questo punto con una scansione ovviamente minimizziamo gli spazi. E comunque naturalmente è una scansione che certo. Ha il suo pieno valore, ecco. Infatti il bollo auto va conservato per 3 anni. Senta, un'ultima raccomandazione riguarda invece l'estratto conto bancario, quanto ce lo teniamo, quello che ci arriva a casa, per chi ancora se lo fa arrivare a casa e chi non utilizza l'home banking e non lo scarica appunto dal sito internet della banca? Ecco, qua andiamo su termini ordinari, andiamo sui 10 anni. Anche qua diciamo che ormai la digitalizzazione aiuta. Quindi l'home banking in questi casi effettivamente è molto più favorevole per gli spazi. Però in realtà c'è ancora chi è molto affezionato al cartaceo, anche in questo caso, poi lo perde, sappiate che la banca per un duplicato fa pagare anche un po' di soldini. Ultima cosa, ci sono molti documenti che andrebbero tenuti archiviati per sempre, atti notarili, per esempio di compravendita, donazione, i rogiti, i contratti, gli atti di matrimonio, gli atti di separazione, quelli di divorzio, attestati, diplomi, insomma ce ne sono un tot che è bene non buttare. Grazie, grazie a Maurizio Merelli, buona giornata. Grazie a voi. Non gli abbiamo chiesto se era ordinato o disordinato. Sicuramente sulle carte sarà assolutamente ordinato, ma prima di passare al tema, anche perché noi l'avevamo detto, ce ne eravamo occupate, adesso torniamo su una notizia che farà piacere a molti dei nostri ascoltatori, perché talvolta si torna anche indietro e nella vita può aiutare. Esatto. Ne parleremo tra poco, ma io chiederei alla dottoressa Torti, nell'attesa che i nostri amici da casa seguano un po' le indicazioni e decidano di fare il cambio degli armadi, guardiamo con consapevolezza, questa parola spesso abusata, le cose che ci circondano per capire qualcosa di più di noi. Allora, iniziamo da chi ha il piacere di tenere i vestiti perché dice magari tornerà di moda, dimagrirò, potrà servire, insomma non se ne libera. Da quello che accumuliamo, la dottoressa Torti ci darà un tratto della nostra personalità. Vediamo se ci ritroviamo. Ebbene sì, è un po' così. Noi tendiamo ad accumulare le cose che ci piacciono e quindi attribuiamo un valore a quelle cose. Quindi le cose che accumuliamo, che collezioniamo, parlano di noi. Se io accumulo vestiti o abbigliamento in generale, allora potrei essere più attenta all'apparenza e ai dettagli estetici. Forse anche un po' vulnerabile al confronto sociale, perché comunque no, sono un po' più attenta al giudizio degli altri, a cosa pensano, valuto. Poi ci sono le persone che accumulano libri, riviste, quindi sicuramente lì si nasconde un tratto un po' più di perfezionismo, una persona più attenta alla cultura, questo va da sé. Oppure chi colleziona o comunque non butta carte, documenti, addirittura scontrini. Io appunto ho visto persone che collezionano scontrini per la paura di dover poi cambiare, ma per anni. Sì, diciamo che c'è anche un'indicazione di conservarli almeno per un paio d'anni, proprio per eventualmente appunto contestare il funzionamento, per esempio, di un elettrodomestico dei quali parlavamo prima o altro ancora. Insomma, un difetto. E questo è saggio, fare anche una fotocopia, perché appunto a volte gli scontrini si scoloriscono anche, no? Sì, esatto, sì. Carta chimica. E quindi queste persone sono sicuramente più attente ai rigi delle regole. Sì. Fanno molta più attenzione, quindi questo è un tratto di personalità proprio, non patologico, ma di funzionamento. Oppure chi colleziona alimenti di tutti i tipi, allora da questo punto di vista domina un po' la paura forse di rimanere senza. Chi fa grandi scorte di alimenti è perché in qualche modo, oltre a soddisfare un piacere, un bisogno quotidiano, ha proprio il bisogno mentale di tenere una scorta di alimenti per nutrirsi. Oppure medicine. Allora, in quel caso, una persona sicuramente più attenta alla salute, al corpo e al funzionamento del proprio fisico. E poi ci sono le persone che accumulano detersivi, materiale per l'igiene, e in questo caso, come sempre dicevamo prima, ancora un po' attenti alla forma, sì. alla pulizia, quindi alla forma, al confronto sociale anche. Perché appunto se io arrivo in casa di una persona e vedo che splende, chiaramente domandiamoci perché la persona tiene anche così tanto pulito, eccessivamente pulito, e perché questo bisogno estremo di collezionare tanti tipi di detersivi o tanti tipi di cosmesi in generale. Allora andiamo a Pasquale, che ci chiama da Milano con una bella storia. Pasquale, buongiorno. Buongiorno a voi. La storia da raccontare è breve. Io ho sempre conservato i diari, che erano poi la mia storia, diciamo, anche se scrivevo pochissime cose dentro, avevo pochissimi numeri di telefono, e ritrovai dopo tantissimi anni un'agenda diario del 68-69 circa, dentro cui, a parte qualche numero di telefono, avevo l'indirizzo di un americano, Alan Lebaron, mi ricordo ancora il cognome, con un indirizzo preciso, e così, andando indietro nel tempo, ho detto: questo mi fa ricordare forse un ragazzo giovane che conobbi durante il liceo, che veniva dall'America, capelli lunghi, hippie, eccetera, che certo, invitava a casa periodo. Mia a mangiare, che invitava a casa mia a mangiare, perché io facevo forse il quarto superiore, il terzo superiore allora. E quindi da un'agenda non buttata, un'amicizia allora, ritrovata. Grazie all'agenda. Grazie all'internet sono riuscito a rintracciare questa persona, che nel frattempo è diventato un professore universitario in America. Vedi. sono riuscito a rintracciarlo e lui mi ha confermato che effettivamente si ricorda quel giorno che abbiamo mangiato insieme, eccetera. E pura coincidenza, lui è venuto per un seminario 2 anni fa a Monferrato e abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci dopo 48 anni. Vedi, se avesse buttato l'agenda, e anche grazie a internet. Grazie Pasquale, ci saluti l'amico americano, noi salutiamo gli amici che ci hanno tenuto compagnia in questa prima parte della giornata. Scriveteci, noi gireremo naturalmente le vostre richieste ai nostri esperti che metteremo con ordine a lavorare per noi. Grazie alla dottoressa Torti e al professor Perna. Buona giornata. Mercati! Pronta, andiamo! JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e Denari. Dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Al buono. Allora, oggi ripeschiamo una notizia che avevamo approfondito in una puntata dell'11 marzo, della quale abbiamo, per la quale abbiamo delle novità e anche positive. Allora, dopo una diffida ricevuta da parte dell'Agicom, che è l'autorità garante delle comunicazioni, Telecom Italia ha reso noto che sospenderà l'applicazione della rimodulazione tariffaria di TIM, che è ormai il brand con il quale si chiama tutta l'azienda, la rimodulazione tariffaria di TIM Voce per i clienti residenziali di telefonia fissa che sarebbe dovuta a partire dal 1 aprile. Telecom, lo ricorderete, lo aveva annunciato a fine febbraio, c'era stata una grande campagna di comunicazione su molti quotidiani, teoricamente la società, come dire, un po' pretendeva che gli abbonati se ne accorgessero dagli annunci sui giornali. Che cosa aveva annunciato? Nella sostanza il raddoppio delle tariffe di telefonia fissa a partire appunto proprio dal 1 aprile. Il costo di ogni chiamata dal telefono di casa per chi non aveva un piano a forfè sarebbe aumentato da 10 a 20 centesimi al minuto, con uno scatto alla risposta pari a 20 centesimi. Ora c'è questo dietrofront determinato probabilmente anche dalla battaglia fatta da alcune associazioni dei consumatori, ma anche dall'intervento davvero deciso dell'autorità garante delle comunicazioni. Allora, che cosa ci domandiamo a questo punto, Nicoletta? Ci dobbiamo fidare? Partita chiusa? O si risveglieranno fra 2 mesi e ci diranno no, l'aumento tariffario lo facciamo dal 1 settembre? Io sentirei anche il polso dei nostri ascoltatori. Voi che dite nel frattempo? 800 24 00 24, ci fidiamo? Infatti. Tra l'altro, a proposito dell'argomento pagato prima, c'è chi contesta tutto il tot di anni che abbiamo dato relativi al tempo in cui dobbiamo conservare appunto certi documenti. Non è colpa nostra, questo dice la legge, insomma, sembra meglio essere un po' tranquilli. E poi ognuno fa quello che vuole, mangia quello che vuole, butta quello che vuole. Non facciamo le maestrine, giusto, Deborah? Esattamente. Ecco. Sentiamo che cosa ne dice un avvocato, l'avvocato Emanuela Bertucci, legale dell'Associazione dei Consumatori ADUC, che abbiamo interpellato anche in precedenza sulla questione Telecom TIM. Avvocato Bertucci, ben ritrovata, grazie. Buongiorno a voi. Benvenuta. Allora, la marcia indietro di Telecom. Noi le avevamo chiesto appunto un po' di chiarezza su questa faccenda, peraltro nella puntata dell'11 marzo, dobbiamo ricordarlo, era intervenuto anche un dirigente di Telecom che ci aveva spiegato nel dettaglio questa rimodulazione tariffaria. Questa marcia indietro, secondo lei, a che cosa è dovuta? Insomma, poi ricorderemo anche un po' tutti i termini della questione che riguardava circa 700.000 utenze. Avvocato Bertucci. Allora, credo che questa marcia indietro, ecco, non sia semplicemente un gesto di cortesia da parte di Telecom TIM rispetto ai propri utenti, non avrebbe senso, era un'operazione commerciale ben pianificata. È stata fatta a seguito, come già avete detto, della diffida dell'Agicom, ma si inserisce in un contesto un po' più ampio, perché ha a che fare con il servizio universale di telefonia, cioè il telefono base di casa con una tariffa a consumo è considerato uno servizio che deve comunque essere reso e Telecom è il garante attualmente di questo servizio. L'antitrust, allora, cosa ha fatto? L'Agicom cosa ha fatto? Ha fondamentalmente detto a Telecom: occhio, non puoi fare queste modifiche perché ne va della possibilità per le fasce più deboli, fasce economicamente più povere o persone anziane, della possibilità di utilizzare il sistema di telecomunicazione se tu hai aumenti i costi. Come ricordavate, si tratta di 700.000 utenze, ma l'anno scorso fu fatta una simile operazione, non identica ma simile, su 5.200.000 utenze. anche l'anno scorso la società Telecom fu diffidata dall'Agicom, ma non ascoltò la diffida e quindi ha preso una condanna ad una sanzione di 2 milioni di euro. Le notizie si sono avvicendate più o meno negli stessi giorni. Ora, il punto qual è? L'Agicom non si è limitata a fare una diffida, ma si è ricordata di quello che era accaduto l'anno scorso e della mancata diffida e fondamentalmente ha detto a Telecom: non mi piace quello che stai facendo. Per 700.000 persone, utenze di telefonia fissa, ora ti blocchiamo e ti intimiamo di non procedere, ma ti annunciamo che apriremo un procedimento per determinare i costi del servizio universale. Cioè, tu non puoi aumentare le tariffe deliberatamente, se decidi di farlo saremo noi a metterti delle soglie a protezione delle categorie più deboli. L'Agicom può farlo, esattamente come l'autorità dell'energia, della può luce e del gas. È un potere che gli conferisce la legge proprio perché è posta in una posizione di garanzia delle fasce più deboli. È chiaro che se si raddoppiano i costi della telefonia, poi formalmente era stato annunciato un raddoppio, ma in realtà l'Agicom l'ha considerata una triplicazione, un aumento del 300%, considerando anche lo scatto alla risposta. Se si triplicano i costi della telefonia base, molte fasce di popolazione rischiano di non poter accedere più a quello che è un servizio importantissimo in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando. Insomma, rispetto a quella che ci può apparire inizialmente una rimodulazione tariffaria, perché magari è una grande azienda che vuole banalmente riorganizzare la propria proposta commerciale, in realtà, come ci ha spiegato l'avvocato Bertucci, appunto c'è dietro tutta la questione appunto del servizio universale, che è anche abbastanza complicata. Peraltro è un tema sul quale ci eravamo intrattenute anche appunto nella famosa puntata dell'11 marzo con la dirigente di Telecom. Detto questo, in realtà presentando appunto questa iniziativa, soffermando l'attenzione dei nostri ascoltatori su questa campagna di comunicazione che Telecom aveva fatto sui giornali proprio per cercare anche di informare tutti su quello che stava accadendo e su quale adesso c'è questo temporaneo, immagino, dietro fronte, perché Telecom dice: in realtà noi vogliamo semplicemente renderci disponibili nei confronti dei rilievi che l'autorità ci muovono proprio per rimodulare eventualmente anche le richieste, la nostra offerta commerciale, la nostra proposta commerciale in relazione alle richieste che ci vengono appunto dall'autorità stessa. Ecco, in attesa di tutto questo qualcuno intanto era già intervenuto, qualcuno si era già chiuso l'abbonamento e adesso c'è addirittura chi vorrebbe ripristinarlo proprio perché appunto in questa confusione adesso gli manca anche un servizio in casa. Vogliamo già sentire qualcuno, Nicoletta? Allora andiamo subito da Aldo. Buongiorno, ci chiama da Sondrio, benvenuto. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo segnalare questo, che come avete anticipato voi, a fronte dell'aumento che Telecom team ha richiesto, ho rescisso il contratto, è un contratto residenziale che utilizzo pochissimo. L'ho rescisso perché questa rescissione si è fatta entro il 30 marzo, veniva eseguita senza penali, quindi senza costi di disattivazione. Ora però sento che Agicom agisce contro team e probabilmente, me lo auguro, spero, però nessuno ne ha certezza, probabilmente questo aumento verrà bloccato o procrastinato nel tempo. Se io volessi ora rientrare per riavere il mio abbonamento residenziale, cosa succede? Team mi farà pagare oppure... Aldo, guardi, mi sa che tanto gratis... Sei un po' permalosa, magari sì, sarà permalosa. Secondo me l'avvocato Bertucci se l'aspettava questa domanda. Ed è una domanda anche molto interessante, perché il signore ha fatto esattamente quello che la compagnia gli aveva detto di fare: se non vuoi l'aumento tariffario recedi entro 30 giorni. Ora, l'aumento era stabilito per il 1° di aprile e il messaggio di Telecom della retromarcia è di 15 giorni dopo. Per cui, secondo me, il signore in questione può chiedere a Telecom la riattivazione, secondo me, senza spese, dicendo: io il recesso dal contratto l'ho fatto soltanto in ragione di quelle modifiche che voi mi avevate comunicato. Siccome sono venute meno, così come per il recesso contrattuale non mi caricate le penali, proprio perché è per un vostro motivo, ugualmente vi chiedo di non caricarmi la nuova attivazione. Mi sembra una posizione non solo ragionevole, ma anche molto sostenibile e in buona fede, perché tutta l'operazione è stata poi fatta successivamente. Allora, adesso sentiremo anche Biagio da Teramo, però tutta questa faccenda, e ce lo suggerisce anche un ascoltatore di cui avevo notato un messaggio in precedenza che adesso vado a ripescarmi abbastanza rapidamente, il tema è anche un po' sempre quello, avvocato Bertucci: il gestore, qualunque qualunque sia l'abbonamento che noi scegliamo di fare, telefonia fissa, telefonia mobile e quant'altro, ha il diritto di modificare le sue tariffe, no? Perché si tratta di aziende che hanno tutto il diritto di fare tutte le proposte commerciali che credono, e generalmente sono anche piuttosto interessanti, perché in questo momento sappiamo che il campo delle telecomunicazioni è estremamente competitivo, per cui l'offerta è veramente ricca e buona probabilmente per tutti i consumatori. Il tema è come questa modifica delle tariffe va comunicata appunto agli utenti, quelli con i quali già si intrattengono dei rapporti, non certo per i nuovi che in genere godono delle condizioni più vantaggiose. Però in tutto questo gran parlare che ho fatto siamo già arrivati al traffico, e quindi che dici, andiamo, Nicoletta? A sentire le strade e veloci torniamo insieme a e voi, e poi sul tema della comunicazione naturalmente ci arriviamo tra poco. Cuore e denari. Eccoci qua, allora, avvocato Bertucci, dalla Fair Telecom al cambiamento delle condizioni contrattuali, che viene generalmente, non si sa spesso con che modalità, comunicato appunto dalle società agli abbonati. Qual è la procedura corretta che dovrebbe essere seguita? Quali sono invece magari le prassi un po' più ricorrenti che anche come associazione dei consumatori tendete a contestare? Ritorno un secondo su un argomento che lei ha appena trattato, cioè è verissimo che tutte le compagnie sono libere di fare le offerte commerciali che ritengono più opportune. Telecom però ha una differenza rispetto alle altre, che è appunto il gestore del servizio universale. Ha una posizione un po' importante, esatto, ecco, per sul cui mercato. Per quello che riguarda la telefonia fissa, questo discorso per Telecom non può valere, e lo ha detto la Gcom. Tornando poi alla questione delle modifiche, allora le modifiche sono ovviamente possibili. È vero che il mercato è molto ampio e ampiamente concorrenziale, ma soprattutto negli ultimi mesi si sta verificando un allineamento paradossalmente verso l'alto. Cioè ci sono aumenti dei prezzi di tutte le compagnie telefoniche, chiamate rimodulazioni o appunto modifiche contrattuali, che anziché farsi concorrenza verso il basso si allineano verso l'alto, e quindi questo a detrimento dei consumatori. Quando si tratta di vere modifiche contrattuali, cioè quando la società mi dice questi sono i nuovi prezzi, accettali oppure no, lì la compagnia ha totalmente ragione e è soltanto tenuta a comunicarmelo in maniera tempestiva, cioè a comunicarmelo con una comunicazione che sia efficace. Non basta comprare una pagina di giornale, occorre comunicarlo all'utente direttamente con modalità che sono inserite nel contratto, che possono essere un SMS piuttosto che una mail, piuttosto che una comunicazione in bolletta, che fosse la via preferibile e comunque dovuta da parte delle società di telecomunicazione. Quindi di certo questi sono i metodi per le modifiche contrattuali, e ogni utente ha possibilità di recedere dal contratto e quindi di dare disdetta nel contratto. Esatto. In che tempi? Quando arriva una imposizione tra virgolette di modifica unilaterale del contratto, qual è la procedura che un utente dovrebbe seguire, avvocato Bertucci? Perché sappiamo bene che in realtà non è che sia proprio così scontato e automatico e facile fare la rescissione del contratto. Quando va bene possiamo rivolgerci tranquillamente al call center della società. In altri casi non ricevono la disdetta dal call center, non ricevono la disdetta dal call center, chiedono che si attivi una procedura sul canale telematico della società, e insomma è bella lunga qualche volta, e quindi passano i mesi ed ecco che l'abbonato magari si paga un altro bimestre nel frattempo. L'abbonato deve essere sicuro di non pagare un altro bimestre, può decidere di farlo tramite telefono oppure tramite internet, ma è fondamentale che parallelamente lo faccia con una raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui scrive: carissima società, vista le modifiche contrattuali, ti do la disdetta. E soltanto questo è il documento che realmente fa prova per non avere le modifiche addebitate magari nel bimestre successivo. Quindi scripta manent. A proposito di manent, Stefano ha una curiosa abitudine con gli elenchi telefonici. È vero, vecchi, perché che si lega alla prima parte della trasmissione. A proposito di ordine, avvocato Bertucci, abbiamo dedicato la prima parte proprio all'ordine e al disordine. Lui conserva i vecchi elenchi perché li considera una miniera di informazione, quindi ha sempre tutto sotto mano. Le leggo un altro paio di casi che hanno relativamente a che fare col tema di questa mattina, ma sempre di relazione fra abbonato e società di telecomunicazioni, appunto quello da cui eravamo partiti. Un altro grande operatore, forse uno dei più grandi a livello mondiale, l'amministratore delegato è italiano ma sta a Londra, non le do altri indizi, avvocato Bertucci, ma ci siamo capiti di chi stiamo parlando. Ci è incuriosito con Nicoletta perché... Io ho fatto subito i conti. Abbiamo fatto i conti, ma cioè lui, allora dunque, Girolamo Danuale Venezia ci scrive che la società ha appena comunicato che la bolletta non sarà più bimestrale ma emessa ogni 8 settimane, e questo comporterà, secondo lui, a parità di costi, un aumento reale di circa il 10%. Mi pare una brutta inversione di tendenza dopo anni di cali. Ma allora, 8 settimane non è un bimestre? No, 8 settimane, ogni 8 settimane sono 8 settimane. 4 più 4, quindi 4 sono 2 mesi. 4, ci sono, esatto, dei mesi che magari hanno delle... Cioè, ma, diciamo che in ogni anno, se si fa la fatturazione settimanale oppure ogni 4 settimane, che anche ci sono stati anche degli aumenti di costo sulle vari piani tariffari che vengono computati non più al mese ma a 4 settimane, di fatto ogni anno si guadagna un mese. Ah. Perché e rimangono un po' di giorni, i giornetti, esatto, qualche, le briciole di giorni che diventano poi una settimana, un mese. Hai capito? E vabbè, insomma, altri telefonate. Un'altra società grande, unilateralmente passata da un mese di abbonamento e 4 settimane per i cellulari. Nulla da obiettare dall'Agicom. Ecco, a proposito di autorità garante delle comunicazioni, so che voi, associazione dei consumatori, state guardando con un atteggiamento molto positivo al grande interventismo che hanno in questa fase. Devo dire che non è mai mancato l'interventismo da parte delle autorità che garantiscono appunto il controllo su tutta una serie di settori in Italia, e multano anche molto spesso in maniera molto salata. Il problema è che molto spesso le società mettono a budget queste super multe, quindi già dall'inizio dell'anno sanno che magari per pratiche commerciali scorrette le autorità arriveranno ad infliggere appunto delle sanzioni molto consistenti. Però so che voi dite in realtà le autorità stanno intervenendo molto di più, avvocato Bertucci. Come consumatori, questa per noi come cittadini è una buona notizia, una notizia interessante? Sì, è una notizia interessante. Devo dire che negli ultimi appunto 2 o 3 mesi, soprattutto in tema di telefonia, si è verificata una forte sinergia fra Agicom, che è l'autorità garante per le telecomunicazioni, e l'antitrust, che è l'autorità che tutela, diciamo, il mercato e la concorrenza, e che per i consumatori si occupa di pratiche commerciali aggressive o ingannevoli. Nelle ultime vicende relative alla telefonia, e mi riferisco soprattutto alle offerte mascherate da modifica contrattuale, c'è stata una forte sinergia sia fra l'antitrust che con l'Agenzia delle Telecomunicazioni, che di fatto, appunto, come è avvenuto nel caso Telecom, ha indotto comunque la società a bloccarsi, e sono delle situazioni che hanno veramente pochi precedenti nella storia della nostra telefonia. Aggiungo soltanto che, se è vero che le multe sono alte, dobbiamo anche pensare che sono alte per le nostre tasche, cioè se ragioniamo su quelle che sono i nostri redditi di cittadini comuni, 2 milioni di euro di sanzione sembra veramente una punizione esemplare. In realtà, quando da quella operazione l'introito che ne viene alla società sono milioni di euro, 30 o 40 milioni di euro, 2 milioni di sanzioni, infatti, sono ben poco. Infatti, come dicevo, lo mettono a budget all'inizio del loro fiscale e amministrativo, esatto. Avvocato Bertucci, secondo lei dovremmo ritornare a breve a riparlare di questa situazione, perché questo aumento rispunterà? Sì, è già rispuntato un altro operatore sul mercato, non so se posso dirne il nome. Senta, siamo qua, è una trasmissione di servizio. Da chi ci dobbiamo difendere adesso e prossimamente? Guardi, non mi faccio querelare, no, naturalmente, ecco, però se lo fanno. Ma al più querelerebbero me, ma non c'è spazio per una querela. Diciamo che queste rimodulazioni mascherate da modifica contrattuale attualmente sono proposte da Wind in un modo singolare, perché non ne stanno dando assolutamente comunicazione né sui media, sui giornali, né sul loro sito internet. E questa situazione l'abbiamo già portata all'attenzione sia dell'Agicom che dell'antitrust. Quindi, clienti Wind, occhio ai messaggini che vi arriveranno sul telefono, perché dovrebbero arrivarvi nel giro di un mese più o meno dei messaggi che vi comunicano che vi saranno addebitati sul telefono nuovi servizi, a meno che voi non ne diate disdetta. E insomma, noi staremo qui naturalmente a controllare il tutto. Grazie avvocato Bertucci per essere stato con noi, buona giornata naturalmente e grazie, buon lavoro. Allora, noi abbiamo terminato, volevo solo segnalare Nicoletta un'ultima cosa, che oggi con il Sole 24 Ore esce il nuovo numero del corso di educazione finanziaria, in questo caso ci si occupa di obbligazioni e titoli di Stato, per cui volevo ricordarlo ai nostri non ascoltatori che la trovano in edicola. Esatto. Che si fa? Abbiamo terminato? Se volete, noi siamo tornate qua domani alle 10:30. Buona giornata a tutti.